Absolute Beginners, la musica emergente su Radio Città Fujiko. E buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati anche questo mercoledì con Absolute Beginners, l'appuntamento settimanale di Radio Città Fujiko con la musica emergente. Per questa puntata a parlarvi per i prossimi 20 minuti circa siamo io e Paola. Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao Leonora. E passiamo allora, come ogni puntata, subito a scoprire qual è il sommario, quali sono i nostri intervistati. Iniziamo la puntata con i Bloody Millionaire. Vengono da Padova e ci parleranno del loro nuovo album Stillness in Bloom, uscito proprio negli scorsi mesi. E poi per la seconda intervista si gioca in casa, in Emilia Romagna. Vengono da Piacenza, sono i Dead in the Club, e ci parleranno della loro new wave e del loro primo album autoprodotto, uscito nel 2017, omonimo. Queste le proposte di questa settimana di Absolute Beginners con le interviste fatte da Alessandra e Chiara, che oggi non sono qui con noi. Iniziamo allora subito con la musica e ci andiamo ad ascoltare Bloody Millionaire e Lay Downtown. Sulle ultime note di LA Downtown diamo il benvenuto a Giovanni, l'energica voce dei Bloody Millionaire. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, è uscito da pochissimo il vostro ultimo EP, Stillness in Bloom, che segue Marble in Dust del 2016. Per chiederti un po' del vostro progetto, volevo partire da un brano proprio di quest'ultimo EP che si chiama The Chase of a Bloody Millionaire. Volevo chiederti se è un po' il vostro manifesto, di cosa parla questo brano. Onestamente non parlerei di manifesto, diciamo che è più un gioco in se stesso, se vuoi, che parla di come siamo noi e delle nostre dinamiche all'interno della band. Quindi l'abbiamo chiamato appunto la caccia ai Bloody Millionaire, che poi siamo noi. E com'è che siete nati voi, Bloody Millionaire? Noi siamo nati, diciamo, da varie esperienze. Ci conoscevamo più o meno già tutti, però siamo nati come nucleo centrale, scrivendo qualche pezzo, io e Pippo, che è chitarrista, e poi man mano abbiamo aggiunto pezzi importanti, che sono stati Lollo all'altra chitarra, Ufo alla batteria e poi l'ultimo acquisto, Enrico Moro, che è al basso e che ci segue da quest'ultimo album. Tu canti in inglese e forse anche perché per il genere che fate ti senti più a tuo agio, però volevo chiederti di spiegarmi un po' di cosa parlano i vostri testi. Diciamo che non è inglese solo il testo, ma anche lo stile, quindi è più un flusso di coscienza che un argomento ben delineato, come siamo abituati ad ascoltare sulle canzoni in italiano. Diciamo che il filone logico di questo disco è appreso appunto direttamente da un viaggio che ho fatto in California e Arizona 2 anni fa. Diciamo che ogni pezzo è associato ad una città o un territorio ben specifico e a quello che mi ricordava durante il viaggio. E a me, oltre che agli Stati Uniti, la vostra estetica e anche la tua voce hanno ricordato più delle atmosfere britanniche, perché mi ha fatto molto pensare ad esempio agli Editors. Magari mi sbaglio, ma quali sono le vostre influenze principali? Allora, le influenze sono molteplici, perché all'interno della band ascoltiamo molte cose diverse. Passiamo dagli Oasis, alle Due, a Springsteen, a tutto il blues di Chicago, allo Stoner, quindi generi abbastanza diversi fra di loro. loro. Come riferimenti, diciamo, molto fissi, molto fermi, abbiamo sicuramente i Black Rebel Motorcycle Club, i Queen of the Stone Age, i Foo Fighters ovviamente. Grandi. Invece avete inserito come ultima traccia dell'album una cover di David Bowie, che è un artista molto coraggioso da affrontare. Come mai avete scelto proprio questo brano? Sì, è sempre complicato portare una cover in un disco registrato, perché ovviamente non potrà mai essere migliore dell'originale. Abbiamo deciso di fare questo esperimento perché noi nei nostri show portiamo sempre qualche cover, che è proprio un omaggio a qualche artista che ci piace, e abbiamo avuto una risposta molto, molto positiva dal pubblico proprio su Space Oddity di David Bowie. Abbiamo continuato a portarla in giro e poi abbiamo detto: ma perché non registrarla? Stillness in Bloom è uscito da pochissimo, quindi immagino che suonerete in giro per farlo apprezzare anche live. Quindi dove possiamo venirvi ad ascoltare prossimamente? Sì, diciamo che lo scopo del disco è esattamente avere del materiale promozionale per fare tante date. Le prossime date sono sempre nella provincia di Padova e Venezia. Abbiamo tante date al Lighthouse, all'Orange Café, alla Busa dei Briganti. Vi invito a vedere la pagina di Facebook per stare aggiornati con le date. Va bene Giovanni, io ti ringrazio per questa intervista, consiglio a tutti di andarvi ad ascoltare e adesso ci ascoltiamo su Air It Out. I'm not afraid to die. Eccoci, allora abbiamo appena ascoltato Waiting dei Dead in a Club. Abbiamo qui al telefono con noi Angelo. Ciao, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Allora, voi siete un gruppo di ragazzi di Piacenza, attivi dal 2016. Come nascono i Dead in a Club? Raccontaci qualcosa della vostra formazione. Allora, i Dead in a Club sono composte da prima 5, ora 4 persone che hanno sempre suonato in ambito garage punk, hardcore, e arriviamo un po' da tutti da questo mondo. Quindi ognuno aveva un proprio gruppo alle spalle, o più gruppi alle spalle. Ci siamo trovati abbastanza casualmente, nel senso che tutti i ragazzi che suonano con me non sono di Piacenza, ma sono al di là del Po, quindi sono lombardi. Io sono l'unico emiliano rimasto, però li conoscevo già tutti, perché ovviamente Piacenza è una realtà molto piccola e ci si beccava sempre ai concerti. Abbiamo iniziato questo progetto che esulava, se vuoi, un po' da tutte le cose che avevamo fatto in precedenza. Nel 2016 esce il vostro album, che prende il nome dal vostro gruppo. Si tratta di 10 tracce che spaziano un po' dal garage rock, come nel caso di Waiting che abbiamo ascoltato poco fa, ad atmosfere un po' più new wave. Parlaci un po' di questo lavoro. Sì, allora, in realtà quando ci chiedono poi di inquadrare i Dead in a Club in un genere, adesso, è sempre abbastanza difficile, perché sono venute fuori un po' di influenze da tutti noi, che vanno appunto dal garage, che è un suono che comunque credo si senta abbastanza, a delle cose più new wave, anche un po' crowd rock, perché siamo abbastanza appassionati tutti della new wave anni 80, e per cui credo che sia venuto fuori nel disco e nelle canzoni che abbiamo scritto. E una curiosità, come mai avete deciso di uscire con un album in vinile con 300 copie, avevo letto da qualche parte? Siamo tutti abbastanza vinil maniaci, per cui per noi il disco è vinile. CD è un supporto che sinceramente non mi piace, non mi piace neanche agli altri, per cui avevamo cioè, a dire la verità, col senno di poi, ovviamente, come si può immaginare, il CD è assolutamente più commerciale, ma a noi interessa anche relativamente poco. Siamo ovviamente poi su Spotify e su tutti i media online, per cui chi vuole trovarci ci trova, e credo che il disco sia un oggetto molto più bello, che meglio si presta a quello che facciamo noi. E invece, per quanto riguarda i vostri riferimenti in ambito musicale, a chi vi ispirate con la vostra musica? Allora, in realtà proveniamo da cose abbastanza diverse. Sicuramente dal garage degli anni 60 alla new wave degli anni 80, al noise delle ultime cose. Gli Appeal su Barry Stranger sono un gruppo che ci piace molto, delle ultime cose che sono, anche se poi non sono ultime cose, perché sono già in giro da 10 anni, credo. Devo dire che questa scena che si sta creando, vabbè, a Bologna c'è una bella etichetta che fa delle belle cose, che mischia un po' il punk al noise, ai suoni grezzi del garage. Ci ritroviamo abbastanza in questa cosa qua. Bene, Angelo, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Ti invito a segnalare le modalità attraverso cui è possibile ascoltare la vostra musica e seguirvi. Sì, ci trovate su Spotify, su Bandcamp. Abbiamo una pagina Facebook che è Dead in a Club, e basta, that's it. Perfetto, grazie ancora. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare il secondo pezzo, dal titolo Skyrocket. We'll be right back. ascoltato Dead in a Club, con la quale si chiudono le interviste di questa settimana di Absolute Beginners. Ormai siamo ai saluti, gli ultimi minuti, però come ogni settimana ci andiamo a salutare andando a ripescare un vecchio album d'esordio, e questa settimana abbiamo scelto un gruppo che ci piace tanto, un po' orrorifico. Stiamo parlando dei Cramps, americani che si formano nel 1976 e il cui primo album ufficiale in studio, di cui adesso ci andiamo ad ascoltare una traccia, è del 1980. Adesso mi impegnerò per dirlo perché non è facile. Songs the Lord Toth Us. Brava Eleonora, l'hai detto proprio perfettamente. Ce l'ho fatta. E il loro marchio di fabbrica, tra le varie cose, era sicuramente la loro immagine. A parte avere dei vestiti bellissimi, loro si ispiravano all'iconografia dei B-movie horror di film degli anni 70. E infatti oggi ci andiamo ad ascoltare il brano, sempre dell'album innominabile che ha detto prima Eleonora. Il brano è I Was a Teenage Werewolf. Quindi si parla di licantropi e tante altre belle cose divertenti come piacciono a noi. Dovete sapere che Paolo ha una passione per The Rocky Horror Picture Show, di cui però non parleremo perché ormai parleremo in un'altra puntata dedicata al Rocky Horror Picture Show. Esatto, la faremo prima o poi. Noi adesso abbiamo finito il tempo, quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 14:30, con Absolute Beginners e nuova musica emergente. E vi ricordiamo, anche per le vostre segnalazioni o se volete dirci cosa ne pensate di quello che diciamo, di cercarci su Facebook Absolute Beginners RCF.